Vlad, vademecum legale contro gli abusi in divisa. Capitolo 2.5. Misure cautelari personali dell'avvocato Marta Bergamini. Cosa sono le misure cautelari personali? Le misure cautelari sono dei provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi, limitativi di alcune libertà della persona e per questo è la legge che prevede espressamente i casi e i modi di applicazione delle stesse, adottati dall'autorità giudiziaria per evitare che l'attesa dello svolgimento del processo possa provocare uno dei seguenti pericoli, le esigenze cautelari. Pericolo per l'accertamento del reato e quindi per l'acquisizione o la genuinità delle prove. Pericolo di fuga dell'autore del reato. Pericolo che si aggravino le conseguenze del reato o che venga agevolata la commissione di ulteriori reati. Si tratta dunque di provvedimenti urgenti che sottostanno ad una disciplina ferrea, volta ad evitare che sfocino in una anticipazione della pena, vietata dalla legge, e che siano adottati con modalità non previste dal codice. Chi può predisporre le misure cautelari personali? Le misure cautelari possono essere emanate esclusivamente dall'autorità giudiziaria, con ordinanza motivata, se ricorre almeno uno dei pericoli sopra elencati e non altri ipotizzati dal giudice ed unicamente nel caso in cui sussistano a carico della persona che viene raggiunta da una misura cautelare gravi indizi di colpevolezza, raccolti fin dall'inizio delle indagini da parte della pubblica accusa, il pubblico ministero. I provvedimenti cautelari, inoltre, sono sempre impugnabili di fronte ad un collegio di giudici, chiamato Tribunale delle Libertà, a seconda dei casi o tramite riesame o tramite appello, e successivamente di fronte alla Corte di Cassazione, come previsto anche nella Carta Costituzionale, per tutti i provvedimenti limitativi delle libertà personali. Scelta della misura. Nell'applicazione delle misure cautelari, il giudice, oltre alle previsioni sopra indicate, deve tener sempre conto del principio del cosiddetto minor sacrificio, e cioè che, nel valutare quale misura sia più indicata al caso concreto, deve scegliere quella che comporta la minor limitazione e compressione della libertà personale, commisurandola alle esigenze processuali. Ed infatti il legislatore ha predisposto una scala di misure cautelari che vanno dalla meno afflittiva alla più afflittiva, considerando la custodia cautelare in carcere come la più limitativa della libertà personale, ed applicarsi, fatte salve alcune fattispecie di reati particolarmente gravi, solo laddove le altre misure, anche se applicate cumulativamente, risultano inadeguate per scongiurare i pericoli di cui sopra. Dall'applicazione delle misure cautelari scaturisce un procedimento, detto appunto cautelare, che è parallelo rispetto al procedimento di merito, poiché diverso è l'oggetto. Il primo è volto ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare quei pericoli sopra elencati. L'altro invece ha come finalità l'accertamento di un fatto di reato e l'individuazione del suo autore. Classificazione. In questo capitolo non tratteremo delle misure cautelari reali che limitano la libera disponibilità di beni mobili o immobili e che consistono nel sequestro conservativo volto ad evitare che si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese processuali e di qualsiasi altra somma dovuta a vario titolo allo Stato o preventivo, se c'è pericolo che la disponibilità di una cosa appartenente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati. Le misure cautelari personali si dividono in 1. Misure coercitive. 2. Misure interdittive. 1. Misure coercitive. Sono quelle misure cautelari personali che comportano una limitazione o privazione della libertà personale. Possono essere obbligatorie o custodiali. Le misure obbligatorie sono: divieto di espatrio. Il soggetto a cui viene applicata questa misura non può uscire dal territorio dello Stato se non con l'autorizzazione del giudice. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il cosiddetto obbligo di firma. Impone all'imputato di presentarsi presso il commissariato di zona nei giorni e negli orari stabiliti dal giudice nel provvedimento di applicazione. Allontanamento dalla casa familiare. L'imputato raggiunto da questa misura è tenuto a lasciare immediatamente la casa familiare, a non rientrarvi e a non accedervi se non con l'autorizzazione. Questa misura viene utilizzata prevalentemente nei casi di delitti contro la persona in contesti familiari o domestici. Difatti, qualora vi sia la necessità di tutelare la persona offesa o i prossimi congiunti, il giudice può imporre anche il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o l'obbligo di versare un assegno periodico ai conviventi che rimarrebbero altrimenti privi di mezzi adeguati. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa o di mantenere una certa distanza dai suddetti luoghi. Il giudice può imporre un obbligo ulteriore, e cioè di non comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la persona offesa o i prossimi congiunti o i conviventi. Divieto e obbligo di dimora. All'imputato è vietato o imposto di dimorare in un determinato luogo e di non accedervi o allontanarsi senza l'autorizzazione del giudice. Di solito la dimora coincide con il territorio di un comune o una frazione dello stesso e all'imputato può essere imposto un certo dovere di reperibilità per permettere all'autorità di svolgere gli opportuni controlli. Il giudice, nell'imporre tali obblighi, non deve recare pregiudizio alle normali esigenze di lavoro. Le misure coercitive e custodiali. Arresti domiciliari. Impongono di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altra privata dimora, con la necessaria dichiarazione di disponibilità del soggetto ospitante o in un luogo pubblico di cura o assistenza. Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'integrazione del reato di evasione. Articolo 385 del Codice Penale. Se necessario, il giudice può prevedere: stabilire ulteriori limiti o divieti alla facoltà di comunicare e incontrarsi con altre persone, oltre a quelle che convivono con l'imputato o lo assistono. L'imputato può sempre comunicare con il suo avvocato per salvaguardare il diritto inalienabile alla difesa. Concedere l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per il tempo strettamente necessario a provvedere alle indispensabili esigenze di vita o per esercitare un'attività lavorativa. La polizia giudiziaria, anche su iniziativa del pubblico ministero, può verificare in ogni momento l'effettivo adempimento alle prescrizioni imposte dal giudice. La misura cautelare degli arresti domiciliari può essere eseguita anche tramite particolari modalità di controllo, il cosiddetto braccialetto elettronico, che permettono di evitare l'esecuzione di una misura più gravosa come la custodia cautelare in carcere. Il braccialetto elettronico, che può applicarsi solo laddove il soggetto presti il suo consenso con dichiarazione resa alla polizia giudiziaria al momento dell'esecuzione della misura, consente di controllare e conoscere costantemente gli spostamenti del soggetto che lo indossa, tramite un rilevatore di presenza che trasmette le informazioni ad un ricevitore. Custodia cautelare in carcere. Tale misura prevede che l'imputato sia immediatamente condotto in un istituto di custodia e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. La custodia cautelare in carcere deve svolgersi in luoghi distinti e separati da quelli dove si esegue la pena definita, poiché diverse sono le esigenze e il trattamento dei soggetti ristretti. Tuttavia, spesso accade che tali soggetti siano custoditi negli stessi luoghi. Laddove il soggetto abbia necessità di essere sottoposto a particolari cure, non somministrabili nei luoghi di detenzione, questo può eseguire la custodia cautelare in un luogo di cura, a volte anche con il cosiddetto piantonamento. Come già ribadito, la custodia cautelare in carcere rappresenta la misura cautelare più restrittiva prevista dal nostro ordinamento, alla quale il giudice può ricorrere solo se ritiene, motivandolo espressamente, inadeguate le altre misure cautelari meno gravose. Ed infatti i limiti di applicabilità di tale misura sono ben più ristretti. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo nei seguenti casi: delitti consumati o tentati, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Nel caso in cui tale misura sia disposta a soggetto che abbia trasgredito le prescrizioni imposte con altra misura cautelare. 2. Misure interdittive. Sono quelle misure che non comportano la limitazione della libertà personale di movimento, ma solo la temporanea sospensione dell'esercizio di determinati diritti o facoltà. Tali misure possono applicarsi nel caso di delitti per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la pena della reclusione, il cui limite massimo è superiore a 3 anni, e sono: sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Con il relativo provvedimento, il giudice priva temporaneamente, in tutto o in parte, a seconda dei casi, il genitore dei poteri ad essa inerenti. Sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, sempre temporanea, impedisce le relative attività. Divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi. Il giudice ne interdice temporaneamente le attività. Inoltre è previsto che alcune misure di sicurezza, quali il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in caso di cura e custodia, a seconda se il vizio di mente è totale o parziale, siano utilizzate se ricorrono i presupposti alla stregua delle misure cautelari e quindi applicate a titolo di provvedimento cautelare per il periodo necessario. Devono però sussistere le seguenti condizioni: che l'imputato sia socialmente pericoloso e che vi siano gravi indizi di commissione del fatto. Ambito applicativo. Dopo aver analizzato quali misure cautelari personali esistono e cosa comportano, veniamo alle condizioni che devono necessariamente sussistere per la loro applicazione, parametri che sono posti a tutela di ogni individuo per evitare il libero utilizzo di questi strumenti. Ai fini dell'applicazione delle misure cautelari interdittive e coercitive, è necessario che il delitto che si ritiene commesso sia punito con la pena dell'ergastolo o della reclusione, il cui limite massimo è superiore a 3 anni. Per la custodia cautelare in carcere, come già affermato, i delitti per i quali può applicarsi tale misura sono più gravi, e cioè delitti per i quali è prevista la pena della reclusione, il cui limite massimo è superiore a 5 anni. Il delitto addebitato deve essere punibile effettivamente, e cioè non deve ricorrere una causa di giustificazione o di non punibilità o di estinzione del reato o della pena, cause che renderebbero vano anche il procedimento di merito e che quindi condurrebbero alla non applicazione della pena. Un altro elemento necessario consiste nell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato. Infatti, quanto raccolto dalla pubblica accusa fino al momento di applicazione della misura in termini di prove, deve permettere al giudice di considerare probabile la condanna all'esito del giudizio. Il provvedimento cautelare, difatti, è emesso allo stato degli atti e quindi non può di certo basarsi sulla certezza derivante dall'istruttoria dibattimentale, ma gli elementi a carico devono comunque essere sufficientemente gravi per evitare che la libertà personale sia limitata senza fondamento. Procedimento. Come già accennato, il procedimento cautelare è un procedimento collaterale a quello principale, di merito, esso prosegue autonomamente e diversi sono i giudici titolari. Tale procedimento prende inizio con la richiesta del pubblico ministero, titolare delle indagini preliminari, rivolta al giudice per le indagini preliminari, di adottare una misura cautelare personale nei confronti del soggetto indagato. Il PM deve indicare al giudice delle indagini preliminari gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari dai quali emerge la necessità di una misura cautelare e gli elementi a favore dell'indagato e le eventuali memorie depositate dall'avvocato difensore. Il giudice per le indagini preliminari ha dunque cognizione di tutto quanto presentato dal PM e decide sulla base di questi elementi con un provvedimento motivato, l'ordinanza. È importante sottolineare che il giudice ha un potere limitato, e cioè non può applicare una misura più grave di quella richiesta dal PM, viceversa può applicare una più lieve o addirittura nessuna misura. La motivazione del provvedimento è particolarmente sostanziosa, poiché deve contenere l'indicazione delle specifiche esigenze cautelari ravvisate, che gli indizi che hanno portato il giudice a disporre la misura e le motivazioni per le quali sono ritenuti rilevanti. Il giudice, nel momento in cui ritiene doversi applicare una misura cautelare, deve inoltre rispettare dei principi che servono a guidarlo nella scelta di quale misura eseguire rispetto al caso concreto, salvo casi specifici, che qui non tratteremo, dovuti alla commissione di reati particolarmente gravi, in cui queste regole vengono derogate per far spazio alla presunzione di sussistenza di esigenze cautelari o di necessità del carcere custodiale, il giudice è chiamato a rispettare il principio di adeguatezza. La misura deve essere idonea ad evitare il pericolo di inquinamento della prova, il pericolo di fuga o il pericolo che vengano commessi i reati. Deve quindi essere adeguata a soddisfare una delle esigenze cautelari che ricorrono del caso concreto. Ad esempio, per evitare che l'indagato possa inquinare le prove a suo carico, si ritiene sufficiente il divieto di dimora in un determinato comune. Il principio di proporzionalità. La misura cautelare deve essere proporzionata alla gravità del fatto e rispetto alla pena che probabilmente verrà comminata alla fine del procedimento principale. Ad esempio, se il fatto contestato non è particolarmente grave, verosimilmente la pena definitiva non sarà particolarmente pesante ed allora il giudice potrà ritenere di applicare una misura non troppo gravosa. Il principio di gradualità. Il giudice deve scegliere la misura meno afflittiva possibile. La custodia cautelare in carcere può essere scelta esclusivamente se le altre misure non risultano idonee. È possibile applicare più misure coercitive e interdittive insieme nei confronti dello stesso soggetto. Il provvedimento del giudice di applicazione di una misura cautelare è emesso con ordinanza motivata notificata all'interessato e al suo difensore. Se è disposta la carcerazione o gli arresti domiciliari, la polizia giudiziaria ne consegna una copia all'imputato unitamente ad una comunicazione scritta contenente i suoi diritti. Diritti dell'imputato. Diritto di nominare un difensore di fiducia ed essere ammesso al gratuito patrocinio se ne ricorrono i presupposti. Diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa. Diritto ad un interprete e alla traduzione degli atti fondamentali. Diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere. diritto a visionare gli atti sui quali si fonda il procedimento, diritto di informare le autorità consolari e avvisare i familiari, diritto di accedere all'assistenza medica d'urgenza, diritto ad essere condotto di fronte al giudice non oltre 5 in caso di custodia cautelare in carcere o 10 giorni, per tutte le altre misure, dall'esecuzione del provvedimento. Diritto a comparire dinanzi al giudice che ha emesso il provvedimento per l'interrogatorio, il cosiddetto interrogatorio di garanzia al quale partecipa obbligatoriamente il difensore, di impugnare il provvedimento cautelare e di chiederne la sostituzione o la revoca. In caso di custodia cautelare in carcere, l'imputato ha sempre il diritto di poter comunicare col suo difensore fin dal primo momento di esecuzione del provvedimento. Una volta eseguita la misura, il giudice deve depositare, insieme all'ordinanza cautelare, tutti gli atti sui quali ha fondato il suo provvedimento, compresa la richiesta del pubblico ministero per permettere al difensore di visionare gli atti del fascicolo cautelare e preparare la difesa. In questa sede pare opportuno segnalare che la misura cautelare successivamente alla sua applicazione può essere revocata, sostituita in meglio o in una più gravosa, con l'emanazione di un nuovo provvedimento, e può estinguersi, senza soffermarci sulla disciplina prevista dal codice per tali fattispecie. I mezzi di impugnazione. La legge ha predisposto tre diversi mezzi di impugnazione del provvedimento, tramite i quali affidare al Tribunale delle Libertà la decisione sul punto. Si tratta di un organo collegiale, composto da tre giudici, che ha competenza esclusivamente sul procedimento cautelare. In ogni caso, l'impugnazione del provvedimento non ne sospende l'efficacia, ma questo continua ad essere applicato anche dopo l'impugnazione. Essi sono il riesame contro le ordinanze che applicano per la prima volta una misura cautelare coercitiva da parte dell'imputato e del suo difensore, ma non del pubblico ministero. L'appello nei confronti di tutti gli altri provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento cautelare e può essere proposto dal difensore, dall'imputato e dal pubblico ministero. Il ricorso per Cassazione normalmente è ammesso contro le decisioni emesse a seguito del riesame o dell'appello, ma è previsto anche il ricorso diretto in Cassazione per violazione di legge. Una volta impugnato il provvedimento nel rispetto dei termini, il Tribunale fisserà un'udienza camerale, durante la quale il difensore, l'imputato e il PM, se presenti, possono esporre a voce le ragioni dell'imputazione. All'esito, il Tribunale emetterà un'ordinanza motivata con la quale può dichiarare inammissibile l'impugnazione, modificare in modo più favorevole all'imputato, confermare il provvedimento cautelare o annullarlo.